Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sopra la Cappella Sistina è stato montato il comignolo più famoso del pianeta, quello su cui da martedì saranno puntati gli occhi del mondo. Prima che inizi il conclave ci sarà una fumata di prova. Fumo rigorosamente giallo per non creare confusione. Martedì mattina con i fedeli la messa di tutti i cardinali proeligendo pontifice, nel pomeriggio gli elettori, quelli che hanno meno di 80 anni, entreranno in conclave per scegliere uno di loro come successore di San Pietro e di Josef Ratzinger. La giornata è comunque segnata da incontri informali, faccia a faccia tra i porporati per cercare un'intesa che vada oltre le attuali cordate. Come si va? La volta scorsa c'era una figura di spessore molto superiore di 3-4 volte il resto dei cardinali, era un teologo unico e stiamo parlando di Josef Ratzinger. Ora non è così, quindi la scelta deve essere realizzata su 1, 2, 3, 4, 5, 12... Eh sì, ora non è così. È inutile sviare l'argomento. Questa sarà la settimana del conclave e le voci informate dicono che sarà anche un lavoro abbastanza breve. Normalmente gli ultimi conclave non sono durati più di 2, 3, 4 giorni. È presumibile pensare che se i lavori inizieranno domani, entro la settimana avremo il nuovo Papa. Una mia personalissima ma del tutto marginale annotazione: nulla è come prima. Ho assistito con attenzione al precedente conclave, quello dell'elezione di Benedetto XIII, e devo dire che era tutt'altro clima, tutt'altra cosa. Volete mettere il grande pathos dei funerali ufficiali di un papa che muore con acclamazione di santità, con una folla spaventosa che si riversa per giorni e notti in piazza San Pietro. Elaborato questo grande lutto, si inizia il lavoro per il nuovo papa, l'apprensione, l'attesa. Oggi, almeno nell'ara, poi mi smentiranno le persone che parleranno molto più informate e più addette ai lavori di me, è un po' un certo impalpabile, ma devo dire concretamente avvertibile, palpabile nei documenti ufficiali, avvertibile nel clima generale, clima di imbarazzo per il fatto che si faccia un papa con un altro papa ancora vivo, con un papa che è ancora lì, non è più papa, è un papa onorario, chiamiamolo così, è un papa emerito, però si trova nell'idea che esistano due papi. Un papa non è morto, se ne fa un altro, e nella credenza popolare morto un papa, se ne fa un altro. Quando un papa è ancora vivo è molto difficile pensare se ne farà un altro, ma affrontiamo la logica dei tempi, affrontiamo la modernità, affrontiamo anche con, ahimè, un senso di accettato relativismo anche l'elezione di un papa con un papa ancora esistente. Operai al lavoro nella Cappella Sistina in attesa del conclave. Per preservare il lavoro dei porporati da eventuali occhi indiscreti si oscurano i vetri delle porte d'ingresso e anche i lavori del pavimento sopraelevato a costruire per proteggere la delicata pavimentazione al di sotto stanno per volgere al termine. Le operazioni di voto. Ciascun elettore esce dal suo posto tenendo sollevata la scheda, giura ad alta voce, chiamando Cristo Signore, a testimone, deposita la scheda in un piatto e con questo lo introduce nell'urna. Lo spoglio dei voti. Il primo scrutatore apre ciascuna scheda, osserva il nome scritto e la passa al secondo, che la consegna al terzo. Quest'ultimo legge il nome ad alta voce, quindi perfora ogni scheda con un ago e la inserisce in un filo. Al termine, le schede così collegate sono tutte inserite in una stufa montata per l'occasione e bruciate. In un'altra stufa collegata vengono posti speciali additivi che determinano il colore della fumata, nera per gli scrutini senza esito, bianca per annunciare l'avvenuta elezione del nuovo papa. Il nuovo papa. Il rito prevede che il cardinale decano si avvicini all'eletto e gli chieda conferma con la formula: accetti la tua elezione. 8.0024, stiamo in un momento abbastanza, cioè notevolmente cruciale per i credenti ma anche per i non credenti. Stiamo osservando qualcosa di assolutamente nuovo dal punto di vista degli osservatori e anche naturalmente dal punto di vista dei ferventi credenti. Da una parte esiste la normale liturgia che avviene in questi campi con tutta una serie di rituali antichissimi, di ricorrenze, di tradizioni. ce le ricordano ogni volta, d'altra parte c'è qualcosa di totalmente nuovo, una sorta di conclave che assomiglia più a una chiamata alle urne profana. I cardinali vengono ormai annotati, appartenenti a correnti, a sottocorrenti nei giornali, ci sono gli scommettitori che già stanno facendo i loro punteggi e le loro uscite più fortunate. Insomma, ci sono i siti internet di appoggio, ci sono i siti internet in cui si può scommettere, e ci sono le letture di tutti i tipi. Sembra quasi che si assista a un grande gioco, come se non fosse l'elezione del Papa. Cosa ne pensa Ignazio Ingrao? Ignazio, buongiorno. Buongiorno. Dove si trovi? Innanzitutto dove ti trovi? Sono in Vaticano, sono proprio qui di fronte alla piazza, con l'attesa, diciamo, di queste ore. Devo dire che, avendo girato un po' per Roma per le varie messe che i cardinali hanno celebrato ieri nelle parrocchie romane, direi che se votassero i fedeli di Roma e i parroci romani, come accadeva un tempo, invece che i cardinali, avrebbero già eletto O'Malley, il cappuccino con il saio, quello che ha già conquistato la piazza e il voto popolare. È quello che si comunica meglio. Ricordo che Ignazio Ingrao è il vaticanista di Panorama. Come tutti i vaticanisti in questo momento danno il massimo di se stessi, perché tutti stanno pensando di scrivere il libro sui conclavi. Anche Ignazio Ingrao ha il suo libro pronto, fresco in uscita per le edizioni PM, Il Concilio Segreto, dove si parla di cene, vertici notturni, salotti, riunioni riservate, lobby, lettere, dossier occulti, e c'è una sua anticipazione su una vicenda legata a Giovanni XXIII, al Concilio Vaticano II, e anche lì ci fu una vicenda di corvi e di spie. Qualcosa del genere, Ignazio, ha anticipato bene il tuo libro? Sì, assolutamente, nel senso che io ho trovato nell'archivio segreto vaticano, in altri archivi, anche del materiale inedito, molto interessante, che fa vedere come anche sia Giovanni XXIII, ma soprattutto Paolo VI, aveva avuto la sua Vatilix. C'era stata una riunione segreta di cardinali tedeschi per scrivere al Papa, presente Ratzinger, e questa lettera, che doveva essere riservata solo al Papa, il giorno dopo va su tutti i quotidiani. C'erano gli stenografi e gli interpreti che trafugavano i documenti del Concilio per passarli alla stampa, ma soprattutto poi, per esempio, denunciamo il fatto che era stato distribuito tra i padri conciliari un documento molto importante di un teologo francese che denunciava i primi casi di pedofilia. Siamo nel 65, quel documento venne censurato, la segreteria generale lo fece requisire e non si poté discutere di quello che erano appunto i primi drammatici segnali di una realtà che poi proprio in quegli anni già stava esplodendo, ma che noi avremmo scoperto 30 anni, 40 anni dopo. Ecco, intanto mi rivolgo al pubblico, 800240024, voi come lo aspettate questo Papa? Come lo vorreste? Siete informatissimi, mai come in questo momento c'è un'informazione capillare sui candidati. Già Ignazio Ingrao, dalla sua osservazione, ha già notato che esiste un candidato che perlomeno per fuor di popolo sembra quello più apprezzato, più richiesto, più differente dagli altri, forse per questo, o è bravo semplicemente nel confezionare la sua immagine, si è mosso bene? Qual è secondo te? No, direi anzi che tra tutti, come dire, è quello che sembra badare meno, diciamo, alla sua, è quello che ci crede meno, ecco, di diventare Papa, devo dire, rispetto ad altri che già magari in qualche modo si stanno calando nel ruolo. Ma soprattutto poi è l'abito, è la barba, quindi è questa immagine comunque anche di povertà, di semplicità, che significa che quello che chiede la gente, ma non solo la gente, lo chiedono anche i cardinali. Perciò io non sono tanto convinto che alcune figure di cui si parla, come il cardinale Scola, come il cardinale Scherer, riusciranno ad andare troppo avanti in seno al conclave. Io credo che poi può darsi che invece i cardinali scelgano altrove delle figure appunto meno in vista apparentemente, ma che possono garantire questa voltare pagina nella linea della trasparenza. Ecco, della il borsino ufficiale, Ignazio, il borsino ufficiale non delle persone informate, diciamo la vulgata che oggi si legge sui giornali, come classifica i probabili papabili? Ma certamente è chiaro che Scola e Scherer entrano in conclave già con un pacchetto di voti. Bisogna capire se riusciranno a trascinare gli indifferenti, tra virgolette, E di cosa sono rappresentativi rispettivamente questi due cardinali? Mascola è una situazione paradossale, perché entrambi non vengono votati, se possiamo dire, dal loro elettorato di riferimento. Quindi Scola viene sostenuto dagli stranieri e non dagli italiani, e lì è il suo punto di debolezza. Scherer viene sostenuto dagli italiani di Curia, da una cordata molto curiale, ma non dai suoi latinoamericani e dai suoi brasiliani. E se non riusciranno a superare questo ostacolo, penso soprattutto a Scola, non sarà facile poi arrivare alle elezioni. Allora dovranno guardare altrove. Scola è quello che praticamente si è più dato da fare per fare il Papa negli ultimi tempi. Ma certamente lui ha in questi anni intessuto una rete che è stata una rete di rapporti, una rete anche di aiuti alle chiese, una rete di dialogo molto molto forte. Però io direi che il suo carattere è il punto chiave, nel senso che non è uomo che è, diciamo, e questo è un pregio anche, non è uomo, diciamo, che è disponibile a grandi mediazioni, o lo si ama o lo si respinge, non è uomo pronto a fare accordi, non è uomo che è disposto a salire al soglio di Pietro legandosi le mani magari con un accordo con qualcuno o con i curiali. E questo è il suo limite, cioè sale ma vuole salire con le mani libere. Mi scrivono che palle Nicoletti, sei diventato un bigotto papista, forse vuoi l'assoluzione celeste, torna a fare le puntate sulla gnocca che ti escono meglio. Intanto ognuno capisce quello che vuol capire. Rispetto al Papa emerito, non possiamo chiamarlo Papa, però che è ancora una figura esistente e anche abbastanza presente, tutto sommato, anche se si tenta di tutte le maniere di azzerare l'informazione su di lui. Come si pongono questi due candidati? Ma soprattutto Scola, diciamo, è tra i suoi allievi. C'è tutto un gruppo di allievi di Ratzinger che comprende Scola, comprende Schönborn, l'austriaco Schönborn, l'ungherese Erdo, il canadese Ouellet, che sono un po' i suoi ragazzi, nel senso che sono i ragazzi, tra virgolette, della rivista Comunio, i teologi, diciamo, dell'ambiente ratzingeriano. E questi sono loro, diciamo, veramente i protagonisti di questo conclave, i playmaker di questo conclave. Hai voglia di dire, diciamo, Ratzinger si è ritirato, ma i suoi ragazzi sono quelli che non a caso sono tra i citati, tra tutti i principali papabili che giocano, diciamo, la partita del conclave. Quindi come l'intuizione banalissima che aveva un profano un po' risponde a verità, ancora è presente questa presenza, anche se è annullata dall'informazione ufficiale. Alberto, buongiorno, qualche ascoltatore. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Dunque, la mia osservazione è semplice. Io vedo in Ratzinger un papa molto conservatore, cioè ha mantenuto da teologo, insomma, la dottrina in modo rigido, con il risultato però che sostanzialmente la Chiesa non ha più parlato al mondo. Il papa precedente riusciva, attraverso una certa fisicità, a comunicare anche con i giovani, ad avere una certa capacità di relazione, che invece questo papa proprio non ha avuto. Con il risultato che la debolezza della Chiesa in generale e la debolezza specifica dell'incomprensione, insomma, di un mondo che è in continuo divenire, ha fatto sì che questo Papa si sia schierato sempre contro il laicismo, ma di fatto non abbia mai parlato, secondo me, con l'umanità. E ha fatto la più relativistica delle scelte, dimettendosi da Papa, che è qualcosa che in effetti... È vero, è vero. Un Papa che ha sempre combattuto il relativismo, in realtà non c'è nulla di più relativistico, un Papa che si dimette perché è stanco. Il Papa non dovrebbe essere mai stanco, dovrebbe seguire fino all'ultimo il suo mandato. Alberto ha parlato, Samuele. Sì, salve. L'ascolto. Grazie. Volevo dire questo, secondo me il Papa dovrebbe essere un tipo Obama, mi spiego? Nero, le profezie dicono che dovrebbe essere un Papa nero, si dovrebbe chiamare Papa II. Perché è nero, mi perdoni dottor Nicoletti, sì. Non perché è nero, non solo perché è nero, ma perché questo Papa deve essere semplice, deve vestire panni semplici, quindi avvicinarsi alla gente. No? Ma il Papa deve vestirsi da Papa, questo non esiste. D'accordo, però c'è modo e modo di portare le cose, lo sa meglio di me, hai capito? Cioè, sì, magari il Camauro ritirato fuori, le babucce firmate. Sì, appunto, questo qui ha rispolverato, diciamo così, il suo guardaroba medievale, cioè, mi spiego, già lì con Benedetto XVI un nome si dovrebbe chiamare, innanzitutto dovrebbe scegliere un nome più moderno, no? Mi aiuti lei, io francamente non sono così intelligente da intuirlo. Ma nemmeno io ne capisco molto, onestamente. Però no, ma ci sono come la nominologia, ha una sua struttura, secondo me, quindi il nome è importante. Poi si deve vestire da papa, dice giustamente, ma io voglio dire, vestire non solo, non riguarda solo il vestito, ma anche il comportamento individuale, come ti muovi, no? E la tua gestualità, eccetera, deve essere vicina, diciamo, deve essere semplice, come Obama. Obama ti dà l'idea del manager. Di medio livello. No, però è interessante, Samuele, che tutti gli ascoltatori si fermano all'aspetto della comunicazione, come il Papa comunica a se stesso. Il carisma non è dato nella lettura, nemmeno delle persone che ho sentito finora al pubblico, da il trapelare la grazia, ma da come ci si pone. Un Papa che sappia comunicare, un Papa che veste, che ha la mano, un Papa che si dimostri come il Presidente degli Stati Uniti, una persona come noi. Luca, buongiorno. Buongiorno Luca. Ci tenevo a chiamarti da tempo perché ti sto seguendo anche in merito ai fatti e a quello che stai facendo per tuo figlio, che è veramente un altro argomento. Sì, vabbè. Assolutamente sì, assolutamente. Faccio sì, quello che un padre fa per un figlio normalmente. Andiamo avanti. Assolutamente sì. Io infatti chiamavo perché ha una correlazione con quello che stavo per dirti sulla puntata di ieri, visto con i conquistatore. Scusa, ho capito molto male perché ho perso un po' la telefonata. Ripeti, cosa volevi dire? Stavo dicendo che ho servito ieri la trasmissione delle Iene. Sì. E appunto, il commento è diventato un eufemismo. Come l'intervistatore seguiva, passo passo, i cardinali chiedendo spiegazioni in merito alle testimonianze che avevano raccolto sugli abitanti. E che impressione hai avuto da quel filmato? Un'impressione di vuoto assoluto. Io sono stato risucchiato da cosa? Allora, fermati un attimo, Luca, fermati un attimo. Riconduco. Ieri le Iene hanno fatto un'intervista, un servizio interessante. Un inviato delle Iene è andato a Piazza San Pietro, ha colto al volo tutti i cardinali, vari cardinali, io li conoscevo soltanto, mi sembra, Monsignor Betori, gli altri non ho riconosciuti perché molti erano stranieri, e ognuno faceva la domanda: cosa ne pensate della vicenda, della copertura di episodi di pedofilia da parte di altri prelati. La risposta è stata veramente desolante. Uno dei cardinali che faranno parte del conclave e che eleggeranno il nuovo Papa è stato appena accusato di aver coperto un prete pedofilo per alcuni anni. La vostra posizione qual è? No, niente. No, che non voglio fare dichiarazioni. Perché? Perché no? Non è nell'interesse della Chiesa invece rispondere a domande del genere. Si parla di bambini abusati. La vostra posizione qual è? Guarda, non ti voglio rispondere. Ci dica almeno perché non ci vuole rispondere. Perché non mi dà la gana. Non le dà la gana di hacer qué? La gana. Che tipo? Stiamo parlando di niños abusados por hombres de la iglesia. Carissimo. Ma perché fate così, scusate? Ma scusate, perché fate così voi? Fate voi così. Ma perché avete il dovere di rispondere, scusate. Dovere di rispondere? A chi? Grazie. Chi siete voi? Grazie. Avete il dovere di rispondere. Grazie. Ma non ci copro. Ma avete il dovere di rispondere a questa cosa. Bene, grazie. Andiamo. Non è legittimo fare delle domande? A volte è legittimo non parlare, lo fanno anche i genitori. Ma pur non ottenendo risposte, continuiamo a fare la stessa domanda. Levati a risponderci, cardinale, eminenza. Sì. No, un attimo, siamo in territorio italiano, per favore, la giacca, per favore. Cardinale, qual è la posizione della Chiesa, cardinale? Abbiamo provato ad avvicinare moltissimi cardinali, ma nessuno di loro ha voluto rispondere e la polizia ci ha sempre bloccati. Senta, il cardinale Calcagno è stato accusato di aver coperto i crimini di un prete pedofilo. Qual è la posizione della Chiesa? Visto che parteciperà al conclave. Mi lasci stare. Non do risposte. Perché no? La Chiesa non ne deve dare le risposte. Perché noi dobbiamo avere un certo riserbo. Ignazio, tu hai visto quel servizio delle Iene ieri? No, non l'ho visto, lo stavo sentendo, ma conosco, diciamo, la tipologia delle reazioni che vengono offerte. Diciamo, chiaramente non è la più morbida delle maniere per approcciare un cardinale e fargli una domanda, su questo non ci piove. Ma in un momento particolare in cui non possono fare a meno di considerare che l'informazione generale è molto sensibile in questo tema, una parola che non sia una risata, uno addirittura si è messo a ridere, dice: ma che volete? Un altro ha aperto l'ombrello per non farsi inquadrare. Non c'è una maniera umana per rispondere a questa domanda, secondo te? Sì, infatti, ma anzi mi sembra che in qualche modo, diciamo, questo genere di reazioni decisioni contravvengano addirittura a quelle che sono state le indicazioni che ha cercato di dare anche Ratzinger in questi anni, cioè nel senso di trasparenza e confronto su queste questioni. Se il cardinale Calcagno ha fatto tutto quello che doveva fare rispetto a questa vicenda, se è vero che appunto ha scritto, aveva scritto alla Congregazione per la Dottrina della Fede, se è vero che appunto poi è stato assolutamente scagionato sia dal tribunale ecclesiastico sia da quello civile, non vedo per quale motivo non si debba rispondere, non ci si debba confrontare e fare queste affermazioni tranquillamente e invece ci si debba un po' nascondere. Certo, è un momento, diciamo, questo tra virgolette del silenzio per i cardinali, ma il silenzio serve se serve, diciamo, a garantire libertà. Se invece viene utilizzato come strumento di potere, allora è un silenzio che non va bene. Cioè, mi sembra che siamo bene o male allo stesso livello del tuo libro. Tu parli dei tempi dell'elezione di Giovanni XXIII, in cui venivano nascosti i bigliettini. Oggi sono passati vari decenni, la televisione ha preso una maniera velocissima di comunicare, la rete è il sistema capillare in cui trapela e passa ogni messaggio, però mi sembra che l'atteggiamento sia sempre lo stesso, fare finta di nulla. Ma sai, parlare della situazione paradossale per cui appunto 50 anni fa nel Concilio Vaticano II il primo documento che viene approvato è quello sulle comunicazioni sociali, si dice che appunto l'importanza delle comunicazioni sociali, si inaugura addirittura una giornata delle comunicazioni sociali, ma la verità è che la Chiesa ha ancora paura o comunque ha ancora un rapporto ambivalente e difficile con la comunicazione. Quando sentivo gli ascoltatori che dicevano è importante l'aspetto della comunicazione da parte del Papa, e io credo che questo non sia riduttivo rispetto alla valutazione della figura del pontefice, perché comunque, diciamo, il cristiano deve essere testimone e la testimonianza poi si trasmette attraverso anche una comunicazione che chiaramente si muove su tanti livelli, quindi dall'appunto dalla gestualità al modo di parlare al modo di vita e allo stile di vita. Anche oggi non sapere comunicare significa alimentare l'ambiguità, e non c'è di peggio che far crescere l'ambiguità in un mondo in cui sembra che ogni ambiguità possa essere sviscerata dal fatto di essere comunicata. Mi scrive un ascoltatore per far capire quali sono poi i livelli delle reazioni, delle letture pop di ogni fenomeno. Dice: la trasmissione delle Iene è una vendetta di Berlusconi perché la Chiesa non l'ha appoggiato alle elezioni. Melog, la realtà condivisa. (800) 24 0024, non capisco perché siete tanto arrabbiati, perché parliamo del conclave, l'argomento del giorno, comunque ancora più sotto l'occhio internazionale delle difficoltà di costituzione di un nuovo governo, e mi sembra logico, mi sembra necessario, doveroso che ne parliamo. Siete ridicoli, parlate dell'Islam in questa maniera se ne avete coraggio, ma mi sembra averne parlato soltanto venerdì in questa maniera, che poi sempre l'unica maniera che conosciamo per affrontare i problemi, facendosi domande senza preconcetti o con il supporto dei propri gloriosi pregiudizi, che però vengono appalesati senza nessuna mistificazione. Trovo un senso di singolarità in questo conclave rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto, me lo confermeranno poi gli esperti vaticanisti che ho al telefono. Non ho mai sentito dire che ci siano cardinali che sono noti perché twittano tutti i giorni, come il filippino Luis Antonio Tagle, l'idolo delle golf filippine, almeno qua in Italia, che canta, balla e soprattutto è molto attivo su Twitter. Ho sotto mano anche un altro sito, adottacardinal.org, che permette alle persone, se vogliono, di adottare idealmente un cardinale, pregare con lui, insomma dare il proprio contributo come se fosse un televoto o mandare l'SMS a X Factor o a un talent show per aiutarlo a superare il concilio. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire a proposito dell'intervista che avete detto che era delle Iene, di cui io ho visto uno stralcio in televisione. E volevo fare un'osservazione. Su questo gravissimo, tremendo problema della pedofilia, la Chiesa ha, proprio per opera di Benedetto XVI, preso una posizione, purtroppo molto tardi l'ha fatto, molto chiara, severa, e chi questi colpevoli di questo delitto sono condannati dalla Chiesa e hanno stabilito di denunciarli all'autorità civile. Questa è la posizione della Chiesa. A proposito di quelle interviste, del fatto che si dice non hanno voluto rispondere, sono stati, può darsi che non siano esperti in comunicazione, questo non lo so, però non è il modo di affrontare in quella maniera delle persone le cui parole pesano quando vengono dette, e su un argomento di questa importanza in quel modo lì, dalle Iene, voglio dire, insomma. Beh, non è che le Iene non abbiano diritto di far domande, come diritto di farlo. No, hanno diritto, ma voglio dire, non è che sono insomma, lasciamo sì, perdere. Sì, però converrà che l'ho premesso che non è certo, sì, la maniera, sì, però l'impressione generale è stata di fastidiosissima reticenza, addirittura qualcuno si è messo a ridere. Beh, non si può ridere in faccia a una persona di fronte a una domanda del genere, dire non voglio parlare. C'è anche modo e modo per esprimere un no comment, che può essere una delle maniere di non rispondere. Comunque, se si è nel mondo, il mondo comunica, se si attraversa una piazza dove ci sono delle telecamere, bisogna essere, secondo me, preparati. Se sei uomini che si vive appieno la propria contemporaneità, e un cardinale deve essere contemporaneo anche se sta in un'istituzione che è assoluta, che è oltre il tempo, deve sapere come rispondere in quel caso. Un argomento così, dire non me ne importo, mettersi a ridere, non è certo un atteggiamento che aiuta. Andrea. Ciao Gianluca, sì. Guarda, io sono un cristiano, quando il lavoro me lo consente vado a messa alle 7:30 e da un sacerdote che dice messa in un quarto d'ora, di una semplicità splendida, è un uomo delizioso, 70 anni, e lui è per la semplicità. Questi sono lontani un miliardo di chilometri da noi, e perdonami, non voglio essere volgare, però io, quando io ho studiato dei preti, ho un bel ricordo di certi preti, anche se vedevo che c'era qualcosa che non quadrava sotto la cosa, che capite bene, però io vedo tutto questo porporame, tutti belli opulenti, lontani da noi, belli ciccioni, me li vedo con i loro attrezzi infiammati tra le gambe, pronti a scatenarsi. Ammazza, che visioni gioia che hai, ma t'ha traumatizzato la scuola dei preti? Nemmeno nelle mie più assurde momenti di incubo, di ubriachezza, mi mente una cosa del genere. Fermo un attimo, Carlo Marroni, buongiorno. Buongiorno a voi. So che ho pochissimo del tuo tempo, che posso usare, ti userò al massimo. Il Vaticanista del Sole 24 Ore, anche lui ha appena pubblicato un romanzo, Le mani sul Vaticano, edizioni Rizzoli. Il tuo punto di vista, si stava parlando dell'atteggiamento, la capacità di comunicare di questi cardinali, ma fra un po' li chiuderanno dentro a chiave e non potranno comunicare se non attraverso il loro voto. Come vedi te questa particolarissimo conclave? Anzitutto abbiamo visto nelle messe che hanno fatto ieri, appunto, chi era più smart, più divertente, più comunicatore. Io penso una cosa però, e questo viene anche dai colloqui che ho avuto con molti di loro, quello che conta è la capacità che hanno avuto di comunicare all'interno del Sacro Collegio. Fondamentali sono stati gli interventi che hanno fatto nelle congregazioni generali, è lì che c'è la loro base elettorale, non è le interviste nei Twitter o nei Facebook. Certo, non è che viene acclamato con Twitter, viene proclamato con Twitter il Papa. Esatto, anzi, sì. Questo è un tema importante. Ci sono stati due cardinali, il filippino e l'argentino, Bergoglio e Tagle, che hanno fatto, questo mi risulta da oggi, degli interventi molto apprezzati. Ora non dico che saranno eletti naturalmente uno dei due, però ecco, è lì che si ha la forza, cioè è lì che i cardinali, 115 elettori, capiscono quale può essere l'orientamento del loro voto. Quindi noi abbiamo una lettura falsata, guardando i giornali emotivamente possiamo seguire i siti internet che dicono adotta un cardinale, ma in realtà i giochi si fanno in ben altro luogo. Ma i giochi poi, se mi consenti, sono anche i giochi migliori, perché sì. Fare il toto nomine sui giornali, cioè, come mi ha detto l'altro giorno un cardinale, dice, guarda, questo non è il Partito Democratico, cioè, che dove chi è che comunica di più o meglio, le battute che si fanno, cioè, non è il Partito Democratico o qualunque altro partito. Ci sono 115 persone di età media di 70 anni che cercano un candidato che porti la Chiesa nei prossimi, insomma, avanti nel millennio, e credo che ci credano in questo. È lì che è la forza forse della Chiesa, cioè che nonostante tutti i problemi a un certo punto forse ha la sua capacità di rigenerarsi. Cioè non sarà il servizio delle Iene che cambierà di una virgola quello che sarà il giudizio finale, poi Rispetto. No, può cambiare appunto sui fedeli, dire quello è più simpatico. Il cardinale americano ieri nella chiesa di Nostra Signora di Guadalupe, il arcivescovo di New York, ha fatto battute, si mangia bene, si mangia male, che lui è molto amato dai media. Però non so se gli servirà a portargli un voto questo. Ecco, quindi no, quindi che... già diciamo dalla tua lettura di attento vaticanista non sarà un papa mediatico il prossimo. No, magari potrà anche esserlo, ma non sarà per quello che viene eletto. Questa è la mia idea. La tua idea di questo conclave con un papa, anche se emerito, presente e con la sua squadra che comunque è in lizza, come ci diceva prima appunto Ignazio Ingrao, come la vedi? È qualcosa di molto singolare anche da leggere, da raccontare e da elaborare. Sicuramente Ratzinger è fuori perché la sua cifra ormai è quella. Ma i suoi sono dentro, qualcuno dei suoi dentro. Sono dentro. I suoi ma non sono ancora suoi, questa è la domanda. Perché siccome sappiamo che non è che molti di loro ha aiutato tantissimo in questi ultimi anni, anzi molti di loro gli hanno solo creato problemi, nonostante fossero considerati Ratzingeriani, alcuni di loro fossero considerati ratzingeriani. Hanno già fatto il salto della quaglia, vuol dire, i ratzingeriani. Diciamo, ormai la partita è chiaro, è liberi tutti e questi, voglio dire, questo gruppo di curiali sta facendo una propria partita, sappiamo anche come, sponsorizzando un cardinale esterno alla curia, che è sicuramente bravissimo, perché poi non stiamo dicendo chi sarebbe in questo caso, chi sarebbe? Il brasiliano Schreier, l'arcivescovo di San Paolo del Brasile, che sarebbe appoggiato da un gruppo di cardinali di curia e si contrapporrebbe a Scola, che invece è appoggiato da tutti i cardinali non di curia, compresi gli americani. Questo è quello che si dice che ad oggi. Che è il paradosso che si diceva oggi. Esattamente. Però attenzione, questi non sono più ratzingeriani, sono ratzingeriani, cioè anche Scola è un ratzingeriano. Lo è anche in maniera molto, però lo è teologicamente in questo momento, e lo sono anche altri, ma solo dal punto di vista dottrinale e teologico, non come corrente, ecco. Antonio, sentiamo l'ascoltatore. Antonio, buongiorno. Sì. A proposito, volevo intervenire a proposito del servizio delle Iene che sono andate a intervistare i cardinali e rammentare ai lettori e ai vari esperti e vaticanisti che la risposta di quello che si dovrebbe fare dei pedofili è scritta nel Vangelo, dove recita che bisognerebbe poi solo mettergli una macina al collo. Quindi credo che è abbastanza semplice e banale dare una risposta chiara e diretta a quelli che sono gli interrogativi del nostro tempo, e uno tra questi appunto cosa fare dei preti pedofili. Lei ci potranno rispondere così, gli metteremo una macina al collo. No, non lo dico io, lo dice il Vangelo. Beh, questo secondo lei dovranno rispondere. Secondo me, se solo loro sono... ma portatori... avremmo visto una fila di preti con le macine al collo che non finiva più. Luca, no. Buongiorno. Luca. Buongiorno. Niente, no, volevo solo intervenire sul concetto che secondo me in questo momento un po' tutto il popolo italiano in particolare penso viva più che altro una sensazione di abbandono, sia da un punto di vista politico che in questo momento anche da un punto di vista religioso. Sì, c'è una fattispecie anche... in più, diciamo il Papa è per tutti, quindi lo stanno seguendo, lei pensi dalle lontanissime Americhe, dall'Africa, sì, tutto però il mondo. Giustamente ritengo che noi, diciamo che il popolo italiano, avendolo in casa, lo viva in un modo particolarmente sentito. Siamo particolarmente abbacchiati in questo momento, sembra che sia accaduto esatto. Tutto, non c'è governo, non c'è Papa. Che anche la scelta di questo Papa alla fine... al di là di tutti i bei discorsi, alla fine abbia comunque un risvolto come una scelta politica, no? Quindi bisogna capire se effettivamente è il bene generale o comunque anche lì non ci sia poi qualche il solito intrigo dietro, no? Perché era ratzingeriani. Ma lei come vede poi i vaticanisti a distanza di 50 anni scrivono libri sugli intrighi passati, di questi intrighi ne sapremo qualcosa fra 50 anni. Concetta. Buongiorno. Sì. Io desideravo dirle come vorrei che fosse un Papa. Lo descrivo, oggi. Finalmente. Un Papa che veramente apre gli occhi su cos'è il cattolicesimo oggi. Tutti sti cattolici, sto popolo cattolico, io non lo incontro nella vita. Perché vedo che c'è gente che ruba senza aver bisogno di rubare, perché hanno alti stipendi e tante assicurazioni. È sempre accaduto questo però. Sì. E poi vedo che c'è proprio un... padri che ammazzano figli, figli che ammazzano padri, sempre accaduto questo, sempre mariti accaduto. Che ammazzano mogli, sempre bambini accaduto. Abbandonati, accaduto. Dov'è la novità? Aborti tutti i giorni, dov'è tutte la novità? Cose contrarie al cattolicesimo. Ma dov'è la novità? Eh? E dov'è la novità? Quando mai c'è stato, diciamo, il regno di Dio in terra in cui tutti erano buoni? Ma allora che razza di cattolici c'ha sto Papa? Ma lei è cattolica? Io sono cattolica, sono credente, ma sto allontanandomi dalla Chiesa. Vabbè, questo è un suo problema, lei dovrebbe sapere comunque, bisogna avere confidenza nella provvidenza, che adesso non sono io che devo dirlo. Ma io la provvidenza non la vedo, perché guardi, c'è un problema suo, disinteresse del prossimo, come non c'è stato mai. Si concetta. Può morire nessuno. Vabbè, non è vero, è un periodo come un altro. E io quello che penso, quanto ci costa queste lezioni? Sì, ma io non faccio né l'avvocato difensore della Chiesa Cattolica né il suo avversario più strenuo, sto semplicemente osservando. Lei mi dice: ho un problema di fede, vada al suo padre spirituale, o se no vada a ballare, faccia altre cose, non so che dirle. Melog, la realtà condivisa. .800 24 0024, parliamo del conclave. Ho finito tutti i vaticanisti che avevo a disposizione, quindi posso parlare soltanto io, che di questo argomento ne so ben poco, ma ascolto con interesse le voci del pubblico. Vorrei sapere, dopo le informazioni che abbiamo dato, stringate ma essenziali rispetto a quello che sta accadendo, il resto è nelle mani di Dio, dice un cattolico, il resto è nelle mani dei cardinali, dice un osservatore laico, qual è il punto di vista degli ascoltatori, cosa vi aspettate da questo conclave. Marco, buongiorno. Marco. Pronto, sono Marco da provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, l'ascolto. Io sono un cattolico praticante, normalissimo, e sentendo tutte queste... Cosa vuol dire normale? Normale cosa vuol dire? Normale vuol dire che frequento la Chiesa e credo nel suo credo, in sostanza. È quello, allora, un cattolico a tutti gli effetti, come dovrebbero essere tutti. Sì. Ma insomma, comunque, io non ho ancora sentito parlare di Spirito Santo, e io dico e sostengo che è lo Spirito Santo poi che orienterà e che guiderà queste elezioni, non è il Twitter, non sono le previsioni dei giornali, e quindi se non si parla di Spirito Santo, che è quello che orienterà e che determinerà queste elezioni, è chiaro che siamo però un po'... Marco, noi parliamo di cose certe, di cose verificabili. Le cose certe sono quelle lì, cioè... Sì, però entra in un ambito diverso, è quello del racconto degli fatti, entra nell'ambito della fede, che è un ambito rispettabilissimo, ma del tutto impalpabile, e non posso io quantificare. Lo so che è impalpabile, però le previsioni, se escono da questa idea, non hanno nessun valore. Ma allora lo Spirito Santo voleva anche che il Papa... Che è lo Scusi. Spirito Santo che interviene. Sì, ma è intervenuto anche per dire a Ratzinger: fai un passo indietro. Certamente, certamente. Ma non era lo stesso Spirito Santo che gli aveva fatto Papa? Certamente, è lo stesso. Ma che fa? Cambia idea lo Spirito Santo? No, sicuramente. Io dico che domanda. Lo Spirito Santo ha orientato in quel momento... Sì, ma se orienta un Papa che deve essere il Papa, e quindi deve essere il vicario di Gesù Cristo sulla terra, è tale, esatto, da rimanere, immagino, non lo so. Esatto. Se lei mi porta a parlare di Spirito Santo, le faccio domande razionali su ciò che non è razionalizzabile, è chiaro. Dico, se lo Spirito Santo l'ha fatto Papa, perché l'ha spapato a un certo punto? Non si è spapato, lì semplicemente si è ritirato, e penso che sia esiste stato un atto di coraggio e un atto di fede. Ma come, il vicario Gesù Cristo si ritira? No, se è vicario, come fa a ritirarsi? Ha detto che farà e rimarrà nell'ambito della Chiesa. Ma il Papa ce n'è uno, mica due. Sarà Papa, certo, sarà Papa, abbiamo detto, sarà Papa e rimarrà Papa, sarà Papa nel nascondimento, nella preghiera, nel raccoglimento. E rispetto all'altro Papa come si pone? Ma questi sono cose che non... Lo sa, perché porto avanti la sua provocazione. Se lei vuole che io faccia domande razionali su ciò, sì, che allora, non va a posto razionalmente... Ha detto che dal giorno in cui, dal 28 febbraio in cui si è ritirato, non si sarebbe più fatto vedere, si sarebbe nascosto al mondo, e così è stato. E così è stato. E adesso ne subentrerà un altro. Lo sa perché, Marco... Perché Marco, in questa direzione. Sì, perché l'ho incalzata, perché se lei mi pone la fede come valore assoluto, che io rispetto, a cui do senz'altro diritto di esistenza, di pensiero, di riflessione, non mi può pormelo se io faccio domande. Se le faccio domande, il suo ragionamento si sgretola, perché di fronte è l'atto di relativismo più assoluto un Papa che si dimette. Se Papa è Papa, rimane tale. Se vuole entrare in questo ambito, se vuole fare... Io non penso così, penso che il Papa che si è dimesso per ragioni ben precise, sì. e lo mi sta secolarizzando mi sta secolarizzando qualcosa che non può essere secolarizzato, di rimanere in un ambito, secondo me, intangibile della fede. Se lei mi parla in termini di fede, io la rispetto. Se vuole che sviscero in termini razionali e concreti quello che lei pone come argomento di fede, devo farle queste domande, però andiamo su un terreno fastidioso. Emma, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Emma da Roma e sono una cultrice di storia, da storia medievale a storia moderna. Le devo dire che la Chiesa ha un valore ecumenico. Ecumenico vuol dire di tutto. Quindi le donne non possono essere escluse, questo è il problema attuale della Chiesa, perché esclude una grande fetta di cristianità. Nel 1335 Guglielmo d'Occam aveva scritto ai frati minori, è scritto nel dialogo, che le donne non possono essere escluse dai concili, motivando per due motivi: la tradizione dei francescani, che si trova anche in una bellissima moneta dei Mocenico. Sì, però scusi, Venezia. Professoressa, scusi, parlare del 1300 Guglielmo di Occam non ci interessa. Al momento le donne sono escluse o sono inglobate nel conclave? Le donne dovrebbero essere inglobate. Però non lo sono. Però non lo quello sono. Quello che riguarda tutti deve essere deciso da tutti. Va bene, ok. Emma, grazie Emma. Buongiorno. Paolo. Non sì, ho capito. Buongiorno. Paolo da Forlì. Sì. Io sono un catechista, volevo tornare brevemente sul discorso di prima sui preti pedofili. Sì. Volevo dire una cosa semplice, tutto quello che avete detto è corretto, quello che ho sentito anche altri interventi che dicevano una macina al collo, eccetera. C'è però una cosa che... Un ascoltatore l'ha detto, io non sono sì, d'accordo. Sì, un ascoltatore, certo, ma e poi non citava... La macina al collo non ha mai risolto nessun problema. No, sì, ha citato il Vangelo impropriamente perché è il giudizio universale, comunque va bene lo stesso. Sì, sa com'è, purtroppo nella totale superficialità anche di chi cita il Vangelo, non voglio entrare, è chiaro che era totalmente... infatti l'ho preso in giro con l'ascoltatore. Infatti, va benissimo, infatti non volevo entrare, volevo stato citare, volevo dire sempre un fatto reale. Mai come con Papa Benedetto XVI sono stati allontanati dalla Chiesa tanti sacerdoti che hanno commesso atti, quelli che possiamo chiamare atti impuri. Non è mai successo prima e quindi la Chiesa sta facendo qualcosa per fare fronte. Concretamente è un Papa a cui bisogna dare atto che si è mosso, cioè ha sollevato il velo del nascondimento dell'omertà. Certo. Un'altra cosa importante è che non possiamo pensare che i vescovi che vengono avvicinati, come quel bellissimo servizio delle Iene che ho guardato anch'io anche ieri sera, non possono rispondere come i deputati che quando gli hanno chiesto che cos'era il Burkina Faso pensavano fosse uno stile di vita. Cioè, queste sono persone quantomeno un po' più serie che sanno che non si può parlare a vanvera, per cui c'è un organo ufficiale del Vaticano che esprime un pensiero e... Questo, l'abbiamo detto, abbiamo fatto subito la premessa necessaria, abbiamo detto però, visto che si è in un mondo in cui si comunica, anche la reticenza o il non voler parlare deve essere espresso in maniera più decifrabile, che non sembra anche lì un occultamento. Grazie a tutti, a domani.